L'amore per la verità. Lo scrittore francese Georges Bernanos ha scritto una volta: la santità è un'avventura, forse l'unica che ci sia. Chi l'ha capito è penetrato fin nel cuore della fede cattolica. La nostra concezione di fede ci induce a confessare la santità della Chiesa stessa. Non che tutto sia buono nel suo interno, ma la grazia fa sempre crescere in essa nuovi santi. È però importante concepire con una certa ampiezza il concetto di santità, perché non c'è alcuna uniformità a questo riguardo. Le figure stesse dei santi mostrano la molteplicità delle sue manifestazioni, dai medici che fanno con abnegazione il loro lavoro, agli studiosi, alle persone semplici, alle fondatrici di ordini religiosi e ai laici che vivono nel mondo. Ho sempre considerato importanti le tante figure di santi oscuri e sconosciuti, le persone semplici che ho conosciuto nella mia infanzia, i buoni vecchi contadini, le buone madri di famiglia che hanno dedicato tutta la loro vita ai figli, alla famiglia e a tutti coloro che in paese potevano avere bisogno di loro. La santità non implica necessariamente eroismo, ma anche semplicità e umiltà. E poi c'è una santità che scuote, che trasmette emozioni intense. In Italia le figure di Padre Pio, che è stato un padre confessore molto severo e addirittura aggressivo, ha acceso forti passioni. Padre Pio non è mai stato tenero con i suoi penitenti. La sua figura costituiva evidentemente una garanzia della presenza autentica nel sacramento di Dio, che ci parla e che è anche pronto ad assestarci una meritata punizione, se è il caso, e che è invece pronto ad aiutare se c'è bisogno del suo aiuto. In questo frate novecentesco la gente ha riconosciuto la figura di Gesù, così come noi la conosciamo dal Vangelo, che sapeva essere molto duro, ma che era infinitamente buono e non negava il suo soccorso a chi ne aveva bisogno. C'è quindi una santità evidente che si impone con i segni con cui si propone, con le nuove energie che trasmette. E c'è una santità semplice e umile di cui non scrive nessuno e che pure è così essenziale per la vita della fede.